in primo piano. Buona giornata, buona domenica da Mauro Meazza, benvenuti alla nostra rassegna stampa. Vediamo i temi in evidenza sui quotidiani che trovate questa mattina in edicola. Cominciamo dall'intervista di Padoan, di cui avete già sentito parlare anche nel corso dei giornali radio che hanno preceduto questa rassegna stampa, intervista che viene riportata dal Corriere della Sera con questo titolo in prima pagina: patto con l'Unione Europea sulle riforme. E poi soprattutto quello che, diciamo, più ci riguarda direttamente e nell'immediato. Basta sospetti, dice il ministro, non servirà una manovra correttiva. La mossa dell'Italia all'Ecofin di martedì e poi le dichiarazioni di Renzi che ieri dall'Alto Adige è tornato a dire: l'Europa non è dei tecnocrati o dei bancari, l'Europa deve essere dei cittadini. Vediamo più in dettaglio qualche passaggio dell'intervista al ministro dell'Economia. Soprattutto, come vi dicevo, la parte che riguarda la possibilità di una manovra, possibilità appunto smentita decisamente dal ministro. Le stime del prodotto interno lordo, chiede Antonella Baccaro, del secondo trimestre non sono state quelle attese. I dati del primo trimestre, dice Padoan, sono stati deludenti, non solo per l'Italia ma per quasi tutta l'Europa e gli Stati Uniti. Lei esclude una manovra correttiva. La risposta di Padoan è: esatto. Ma se il PIL, lo incalza la collega, crescerà meno dello 0,8% previsto, non saremo vicini al limite del 3% nel rapporto deficit-PIL. Questo limite, lo ricordiamo, è quello che poi costringe appunto ad attuare delle misure correttive. La regola dice 3%, risponde il ministro, che precisa però: molti paesi ancora non la rispettano, a partire dalla Francia, noi la rispetteremo. Quindi questo ottimismo, questa fiducia del ministro esclude in ogni modo possibile la eventualità di una manovra correttiva nel corso dell'estate. E ancora prima nell'intervista leggiamo appunto quello che dovrà essere il confronto vero dell'Ecofin, cioè la riunione dei ministri dell'economia dei paesi dell'Unione, che si svolgerà martedì. E il tema naturalmente è quello di capire quanto si può essere flessibili con il rapporto tra indebitamento e crescita. Naturalmente bisogna valutare l'impatto delle riforme, questo è un po' il cuore del dibattito, cioè se un paese avvia delle riforme strutturali è chiaro che questo può costare all'inizio ma dovrebbe poi dare dei benefici consistenti e soprattutto duraturi sul medio termine. Allora si chiede al ministro: nel decidere come misurare le riforme, appunto come valutarne l'impatto economico, ritroveremo i due schieramenti che si fronteggiano sulla flessibilità, cioè si può o non si può sforare questo benedetto 3%, dice il ministro Padoan. Il concetto di misura è un concetto standard accettato da tutti, si tratta di mettersi d'accordo sui criteri. Alcune istituzioni internazionali già lo fanno, l'OCSE, ora anche il Fondo Monetario Internazionale. È chiaro che se non siamo d'accordo su quanto è lungo un metro non si fa strada assieme. Con questa metafora appunto il ministro torna ad indicare la necessità di capirsi su che cosa vuol dire flessibilità, quanto poi può tradursi appunto nei conti. Un'ultima battuta da questa intervista che trovate, lo ripeto, sul Corriere della Sera di oggi: conferma gli incassi delle privatizzazioni, anche se quella delle Poste subirà un rinvio. I numeri che stanno nel documento di Economia e Finanza sui proventi attesi sono confermati. Per Poste c'è l'ipotesi di dedicare un po' più di tempo alla valorizzazione, chiedo scusa. Poi ci sono anche altre dismissioni in campo. Si accelererà, gli chiedono, su Eni e Enel. Eni e Enel hanno una partecipazione diretta dello Stato che è ancora cospicua, tale da garantirne il controllo pur in caso di ulteriori cessioni. È un'ipotesi al vaglio. Queste alcune delle dichiarazioni del ministro Padoan. Ripeto, il punto poi decisivo sembra essere quello di escludere in qualsiasi modo una manovra correttiva e soprattutto il confidare in una interpretazione della flessibilità per quanto riguarda i conti che tenga in considerazione l'avvio di una serie di riforme appunto fatto dall'Italia. Sempre in tema di riforme in qualche modo dal Messaggero di questa mattina. Pensioni, due casi per il governo. Si tratta di una modifica nel decreto dedicato alla pubblica amministrazione che va a correggere la norma della legge Fornero e consente il congedo di 4.000 professori che si erano trovati sostanzialmente ad aver maturato i requisiti senza potersi ritirare. E poi le alternative per il cosiddetto scivolo degli esodati, cioè coloro che si trovano in prossimità dell'età della pensione avendo anche un sufficiente numero di contributi, ma che in questo momento, appunto in virtù delle nuove regole varate a fine del 2011, non sono in condizioni di ritirarsi. E qui torna di attualità un tema, quello del cosiddetto prestito d'onore, che era stato sollevato con il governo precedente e con il ministro Giovannini. Di che si tratta? Una sorta di anticipo sulla pensione per cui ci si potrebbe, è una proposta, quindi usiamo il condizionale, un'ipotesi, nemmeno una proposta formalizzata, ritirare prima, spiega appunto Michele Di Branco sul Messaggero di questa mattina, mandare a riposo le persone alle quali mancano ancora 2 anni al conseguimento dei requisiti per andare in pensione. L'INPS comincia da subito a pagare una pensione piena, il neopensionato in anticipo appunto restituisce poi senza interessi l'anticipo che gli viene concesso sotto forma di mancate contribuzioni e rinuncia per gli anni a venire a qualche decina di euro al mese sull'assegno previdenziale. Insomma, una sorta di anticipo, appunto prestito d'onore. Di solito questa formula viene indicata per lo più per i prestiti agli studenti e agli studenti universitari, questa volta invece si prende a prestito, scusate il gioco di parole, si prende a prestito per utilizzare invece la possibilità di ritirarsi anticipatamente rispetto ai requisiti fissati dalla riforma Fornero, anticipatamente dal lavoro. Potenzialmente, scrive sempre il Messaggero di questa mattina, ci sono 300.000 lavoratori che sono prossimi al riposo e che potrebbero essere coinvolti in questa operazione. Poi naturalmente c'è il problema che resta un po' stabile dei cosiddetti esodati, cioè di coloro che si sono trovati in forza dell'aumento dell'età per il ritiro in mezzo al guado, quindi senza lavoro e senza pensione, e per i quali è stato coniato appunto questo termine di esodati. Ancora di recente avete letto sul Sole 24 Ore, avete ascoltato Radio 24, il governo ha varato un'ulteriore salvaguardia per ampliare la platea dei tutelati, ma che chiaramente è ancora molto più vasta. Da qui appunto l'ipotesi che avanza il Messaggero di questa mattina di recuperare questo prestito d'onore. Se n'era parlato, lo ricorderete, con il ministro precedente, con il ministro Giovannini. Sempre sul Messaggero, in evidenza alcune delle altre notizie che poi sono anche segnalate sulle prime pagine di molti altri giornali, tra cui appunto la bella vittoria delle nostre tenniste Errani e Vinci a Wimbledon, primo trionfo italiano sull'erba di Wimbledon per le nostre tenniste, e poi le notizie e le segnalazioni sul mondiale. Torniamo al Corriere della Sera, dove campeggia anche in prima pagina la polemica sugli sms del sottosegretario che appunto ha mandato degli sms per invitare a votare due candidati, per segnalare due candidati al Consiglio Superiore della Magistratura. CSM, votate quei due. Polemica sugli sms del sottosegretario, i messaggi di Ferri ai giudici giudicati una interferenza. Grande fotonotizia anche sul Corriere della Sera per Errani e Vinci, per le nostre tenniste. Ma ieri è stata un po' anche una giornata in qualche modo dedicata al lavoro, perché le parole pronunciate da Papa Francesco in visita in Molise hanno degli aspetti, degli echi per chi si occupa di economia, appunto molto molto rilevanti, poi in realtà un po' per tutti noi. Il Papa, due punti: dare lavoro o si toglie la dignità. Così Avvenire, che tra l'altro presenta anche poi nelle pagine interne il testo integrale del messaggio del Papa. Il Papa ha detto sostanzialmente due cose: l'uno appunto il richiamo forte alla possibilità, alla dignità che viene garantita solo dal poter lavorare. Ha detto testualmente: non si tratta di avere da mangiare per se stessi, ma di portare il pane a casa. Questo, se non sia questo, si toglie la dignità. L'altro punto però destinato sicuramente a far discutere è che il Papa ha invitato a perdere tempo con i figli, ad esempio appunto evitando di lavorare la domenica. A questo proposito, prima che naturalmente poi troviate anche tutte le varie interpretazioni contro o a favore del lavoro domenicale, le parole di Papa Francesco riportate su Avvenire sono queste. La domanda è: a cosa vogliamo dare priorità? La domenica libera dal lavoro, eccettuati i servizi necessari, sta ad affermare che la priorità non è all'economico ma all'umano, al gratuito, alle relazioni non commerciali ma familiari, amicali, per i credenti alla relazione con Dio e con la comunità. Forse, ha detto Papa Francesco, così come lo testimonia Avvenire oggi in edicola, forse è giunto il momento di domandarci se quella di lavorare la domenica è una vera libertà. Queste le dichiarazioni del Papa in Molise, appunto, che ha parlato lungamente di lavoro, affrontando anche questo tema che appunto della domenica da lavorare oppure invece da dedicare al riposo, un tema, come sappiamo, che ha fatto discutere anche nei mesi precedenti, anche negli anni scorsi, quando appunto le aperture domenicali hanno cominciato a diventare più frequenti. Vediamo una ultima prima pagina prima di fermarci per ascoltare le condizioni della viabilità. Renzi sfida l'Europa dei burocrati, è il titolo principale dedicato dal secolo XIX alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, e poi grande foto in prima pagina per il califfo Baghdadi, questo, come dire, nuovo nemico dell'Occidente in qualche modo, viste le sue dichiarazioni molto bellicose, molto minacciose, il principe della guerra santa. Con questa evidenza, devo dire, solo sul secolo XIX di oggi, l'apparizione televisiva del califfo Baghdadi, che appunto è tornato a invocare la guerra santa. In primo piano. Bentornati, ancora una buona domenica da Mauro Meazza. Vediamo qualche titolo dei principali che animano le prime pagine oggi dei giornali in edicola. Eravamo sul secolo XIX prima di fermarci per ascoltare la viabilità, e proprio dal secolo XIX traiamo alcune dichiarazioni del vice ministro dell'economia Morando. Vi dicevo nella prima parte di questa trasmissione dell'intervista a Padoan, al ministro dell'economia Padoan, che esclude al Corriere della Sera la necessità di una manovra, più dialettico in qualche modo il vice ministro, che è intervistato da Alessandro Di Matteo sul secolo XIX, dice: se il PIL, la domanda di Matteo, del primo semestre di quest'anno sarà negativo, servirà una nuova manovra. Lo ha ribadito anche il ministro Padoan: è ovvio che se il PIL fosse del tutto eccentrico rispetto alle previsioni, dovremmo prendere in esame le misure necessarie. Ma, e qui la parte più rassicurante della dichiarazione, ad oggi continuiamo a ritenere che sia possibile che il prodotto interno lordo nel 2014 si avvicini alle previsioni, anche se magari non le centrerà totalmente, visto il dato del primo trimestre. Peraltro c'è qualche elemento incoraggiante, dice Morando. I dati dell'Istat sui consumi interni di giugno mostrano segni di risveglio. Per ora dobbiamo lavorare e aspettare. Gli si chiede poi se la riduzione a pressione fiscale avviata con gli 80 euro verrà proseguita. La risposta è: prima di tutto dobbiamo rendere strutturale, quindi definitivo, l'intervento degli 80 euro, magari nel 2015 guardare di più alla riduzione dei costi delle imprese, anche se abbiamo ridotto l'IRAP del 10%. Ma la condizio sine qua non è il successo della revisione della spesa, la famosa spending review, che nel 2015 deve dare 17 miliardi. La revisione della spesa pubblica amministrazione quindi torna in questa intervista, in queste dichiarazioni al secolo XIX del vice ministro all'economia Morando. E allora veniamo al Sole 24 Ore, che questa mattina decide di dare il suo titolo principale proprio a questioni di debiti della pubblica amministrazione. Enti locali, 2 miliardi per pagare le imprese, è pronto, dice il Sole 24 Ore questa mattina, il decreto attuativo sui debiti delle società partecipate, da sbloccare ancora la dote dei ministeri. E poi, sempre dalla prima pagina del Sole 24 Ore, gli esordi in borsa, le IPO in borsa, l'Europa batte gli USA, nell'Unione Europea sono già stati raccolti 37 miliardi, un sorpasso storico, scrive il Sole 24 Ore su Wall Street, nei debutti delle matricole, è stata superata anche l'Asia, quindi un segnale positivo di dinamismo dei mercati finanziari. Per quanto riguarda invece il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione alle imprese, scrivono Carmine Fotina e Marco Mobili oggi sul Sole che è stato firmato appunto il decreto per favorire la cessione dei crediti certificati alle banche, in ultima istanza la Cassa Depositi e Prestiti. Novità ulteriore, la firma di Padoan è stata apposta anche sul decreto ministeriale che stabilisce i criteri per concedere agli enti locali 2 miliardi per il pagamento dei debiti nei confronti delle loro partecipate. Il meccanismo però di erogazione alla fine, come spiega anche l'analisi dello stesso Carmine Fotina, sempre sul Sole 24 Ore di oggi, è abbastanza articolato e se, come scrivono appunto, come scrive oggi sul Sole 24 Ore, se davvero il governo taglierà il traguardo del 21 settembre pagando la totalità dei debiti della PA, bene, vorrà dire che tutta una serie di variabili si è incastrata nel verso giusto. Non è impossibile, in qualche modo, volendo riassumere molto brevemente le considerazioni dei colleghi, non è impossibile, ma certo non è una questione così semplice completare il percorso attuativo per i pagamenti della pubblica amministrazione. Intanto, sempre al Sole 24 Ore, vi segnalo che è stata siglata l'intesa tra l'associazione bancaria e le PMI per la moratoria dei debiti delle PMI, una decisione appunto definita molto positiva dallo stesso Boccia di Confindustria, perché in questa fase appunto c'è una necessità di rispondere alle esigenze di liquidità delle aziende. Ancora due citazioni al Sole 24 Ore. Da una parte, segnali di vita dai saldi, leggiamo dalle pagine interne, un primo bilancio con i dati dell'associazione di categoria delle vendite che sono partite al sud mercoledì e al nord sono cominciate ieri. Due italiani su tre stimano appunto da Confesercenti approfitteranno dei saldi estivi con una spesa complessiva che dovrebbe aggirarsi attorno ai 4 miliardi di euro, soprattutto per l'abbigliamento. Si stima che una metà degli 80 euro in busta paga, di cui hanno beneficiato 10 milioni di italiani, servirà a rinnovare il guardaroba. È più cauta invece Confcommercio, che parla solo di una lieve crescita rispetto ai saldi dello scorso anno, calcola una spesa media di 100 euro a cliente, complici gli sconti partiti già sopra il 40%. Cambiamo argomento per parlare un po' di giustizia, riforma della giustizia. Come sapete, c'è un programma molto articolato che il governo ha cominciato a presentare, che poi dovrà prendere corpo presumibilmente dopo la pausa estiva. Allora, sulla Repubblica, il titolo principale è proprio dedicato a questo tema, riprendendo una dichiarazione del ministro Orlando che viene poi intervistato a pagina 3. Sulla giustizia, niente inciuci con la destra, dice il ministro, nessun freno alle intercettazioni. E poi, per quanto riguarda la corruzione, Cantone e le norme penali non bastano, quindi ulteriori interventi anticorruzione, così l'intervista di Liana Milella ad Andrea Orlando oggi su Repubblica. Le norme anticorruzione, chiede Milella al ministro, dalla prescrizione lunga al falso in bilancio possono ancora aspettare? La risposta del ministro è secca: no. Tant'è che faranno parte del pacchetto giustizia, appunto, che il governo ha cominciato a presentare in questi giorni. E nei prossimi giorni le proposte su falso in bilancio e autoriciclaggio saranno messe online. Sulla prescrizione stiamo arrivando a una sua puntuale definizione. Punto dolente dal punto di vista politico, le intercettazioni, chiede la collega Milella, c'è o non c'è una stretta sulle intercettazioni? Renzi è stato chiaro, non si tratta in alcun modo di limitare l'uso delle intercettazioni nelle indagini, tant'è che la scelta del governo non è stata neppure quella di scrivere un testo sulla diffusione. Abbiamo invece lanciato un appello ai media per cercare insieme un punto di equilibrio tra il diritto all'informazione e la tutela della privacy. Ma proprio in tema di giustizia, tornando sul Sole 24 Ore per un momento, il resoconto, l'anticipazione di Giovanni Negri, che parla del giudice unico per i problemi della famiglia. L'idea è quella di avere un giudice unico per tutto il diritto di famiglia e per i minori. Il Ministero, nella consultazione online che è stata avviata sui vari punti della riforma, chiarisce la natura e la fisionomia dei nuovi tribunali specializzati e appunto si apprende da questi chiarimenti che il Tribunale della Famiglia e dei Diritti della Persona, questa è la formulazione, verrà istituito con il principale obiettivo di procedere a una definitiva unificazione delle competenze in materia di famiglia, minori, adozioni, separazioni e divorzi, il tutto in una unica struttura organizzativa nella quale far confluire anche le professionalità che si sono formate nei tribunali dei minorenni. Quindi, scrive Giovanni Negri sul Sole 24 Ore di oggi, quello che attualmente è frammentato tra il Tribunale dei minorenni, il giudice ordinario e il giudice tutelare verrebbe unificato con una serie di vantaggi e con la possibilità di evitare le duplicazioni. Tutto questo sul Sole 24 Ore oggi in edicola. Vediamo rapidissimamente qualche altra prima pagina, ad esempio dalla Stampa le cattive notizie sulle imposte locali, più tasse a tutti, ecco i conti del federalismo, tributi diversi da un comune all'altro, Cuneo la più virtuosa e Roma la peggiore, è il titolo di apertura oggi della Stampa in edicola, mentre il Libero torna su una vicenda che ha sollevato tra i primi questo quotidiano: tassa su TV, telefoni e computer per dar soldi a Gino Paoli e altri. Si tratta del diritto di copia privata, è un più che una tassa, effettivamente è un aggravio che viene poi destinato alla Società Italiana degli Autori ed Editori. Rialzi fino al 500%, scrive Libero, per l'imposta sull'acquisto degli apparecchi elettronici per rimpinguare la SIAE. Solita musica, scrive appunto Libero, si tutelano i privilegiati, si salvano i furbi e si bastonano gli onesti che non piratano i CD. Così appunto sulla prima pagina oggi di Libero. Mentre ancora un'ultima citazione per la prima pagina dell'Unità, che riprende invece le dichiarazioni di Renzi: l'Europa non è dei tecnocrati. E poi Padoan, che va verso l'Ecofin di martedì: nel semestre ci attendiamo riforme, investimenti e più mercato. Bene, e allora vedremo se questo semestre sarà davvero così soddisfacente. Grazie e ancora una buona domenica a tutti, grazie a Pietro Lacorte per l'assistenza in regia. Come sapete la rassegna stampa torna domani mattina con Alessandro Milan.